Eccomi cari amici, non sono riuscito a predicare questo che vi dirò, però lo registro ugualmente perché mi sembra un insegnamento molto bello da non perdere. Siamo al capitolo 24 del libro di Giosuè, quella che almeno gli addetti ai lavori conoscono molto bene, l'assemblea di Sichem, che è il rinnovare l'alleanza. Cosa succede? Succede che l'uscita dall'Egitto e poi lo stabilirsi dentro nella terra promessa non è mica stata una passeggiata, è durata 40 anni per un motivo, insomma, che è stato tutto un subbuglio, un dentro e fuori, un su e giù. E siamo qui in un momento di grande difficoltà, di grande difficoltà. Allora, Giosuè, che ha sostituito Mosè nella guida del popolo che entra nella terra promessa, prende in mano la situazione che sta sfuggendo, insomma. E allora dice: venite, guardate, decidete un po' chi volete servire. Se volete servire il Dio dei nostri padri o se volete ritornare invece ancora agli dei pagani. A buon conto, dice, io vi ricordo quello che ha fatto il Dio dei nostri padri. E gli fa una lunga carrellata in cui fa passare tutta la storia di Israele, da quando manda Abramo nella terra di Canaan, Isacco, Giacobbe, Esaù, poi Mosè, Aaron in Egitto e così via. Dopo che ha ricordato tutte le cose portentose, belle, che Dio ha operato per il suo popolo, alla fine dice: questo è quello che Dio ha fatto per noi. Decidete voi se volete stare con Dio o se volete tradirlo e andare da un'altra parte. Allora tutto il popolo ripete: no, no, noi vogliamo stare con il Signore. Ecco, questo fatto che credo possa dire poco alla gente. Infatti vedevo la gente che ascoltava sì questo testo, però non conoscendo tutti i termini di questa rievocazione era un po' distratta, un po' così. Mi permette di dare questo insegnamento, cari amici. Anche noi ogni tanto avremmo bisogno di fare un serio esame di coscienza di tutto il bene che Dio ci ha fatto. Perché alcune volte siamo tentati anche noi di andare giù di giro, magari di fronte a una grossa difficoltà. Io sento più di una persona che stoltamente dice: io sono arrabbiata col Signore. Dico: ma come sono arrabbiata col Signore? Ma hai provato a riflettere cosa ti ha dato? Sì, però. E dico: ma fai come i bambini. I bambini, tutto quello che hanno ricevuto dal papà e dalla mamma, poi papà e la mamma gli dicono un no su una certa cosa, ecco, tu non mi capisci, tu. Pensate agli adolescenti, pensate a questo. Ma a me è venuto in mente anche un altro episodio che vi voglio condividere, che credo ha un grosso insegnamento. Un uomo me l'ha raccontato direttamente lui, dice: io ho quattro figli. Uno l'ho sposato e tre sono ancora in casa, e devo provvedere anche a loro, insomma, no? Questo figlio maggiore, c'ha la sua bella famigliola e tutto, si è messo in testa di comprare un appartamento e aveva un po' di soldini, però a un certo punto si trova alla corta. Allora viene da me e dice: senti papà, guarda, io so che tu hai preso la liquidazione. Era un operaio, hai preso la liquidazione, fai così tu, prestamela, poi te la do indietro, prestamela, in modo che io possa fare. Questo papà, per due motivi intelligenti, sapendo come vanno a finire i prestiti ai figli, primo motivo, e secondo motivo gli dice: guarda, io ho lì ancora tre figli da maritare, Ma sì, ma papà, ma mica me la regali, te la... sì, quando è che potrai restituirmela? Si tratta di parecchi soldi, insomma, no? E, guarda, non posso, devo pensare anche agli altri. E qui succede una cosa inqualificabile. Succede che questo figlio, dimenticando totalmente quello che ha ricevuto da suo padre, tutta la sua vita gli dice una frase terribile. Cari amici, noi dobbiamo stare attenti, quando ci arriva l'ira al cuore, noi dobbiamo morsicarci le labbra e non dire certe cose ai nostri genitori o alle persone che amiamo, o a tua moglie, a tuo marito, ai tuoi figli, al tuo papà, soprattutto frasi che io dico senza ritorno, perché sono frasi che poi o te le rimangi, ma non puoi rimangiartele perché sono troppo pesanti. Beh, insomma. Questo figlio dice al papà, ecco, tu non vuoi aiutare tuo figlio, e allora tu non mettere più piede in casa mia. E se ne va. Voi provate a pensare, sto papà, ha tirato su quattro figli. Cosa può aver fatto per tirare su quattro figli al giorno d'oggi? Non è una cosa, è un operaio modesto. E questo figlio, invece di ripercorrere tutto quello che questo papà ha fatto, sceglie di stare col proprio egoismo invece di stare con l'amore di suo padre. Cari amici, perdonate, ma non potevo tralasciare questo insegnamento che la Bibbia ci dà. Non dobbiamo mai dimenticare tutto il bene che Dio ci ha fatto. E quando siamo tentati di scoraggiarci o di dire anche noi parole pesanti verso Dio, prendi in mano un pezzo di carta, comincia a mettere giù tutte le cose belle che Dio ti ha fatto, perché quando sei giù di giro ti vengono in mente solamente le cose brutte, metti giù le cose belle e poi ringrazia Dio per tutto quello che ti ha fatto. Noi scegliamo di stare con il Signore. Ciao, buona giornata!